Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. I giovani si muovono in tutto il mondo. Quando si parla di fuga dei cervelli o comunque di migrazioni, si tiene sempre conto di una direzione del flusso, c'è poi un flusso di rientro. Il nostro paese non è ancora abbastanza attrattivo nei riguardi degli stranieri, cioè dei ragazzi di altri paesi, ma comincia a essere molto più attrattivo rispetto ad alcuni anni fa nei confronti dei nostri connazionali che magari hanno fatto esperienze di formazione o anche di lavoro all'estero e poi riportano da noi la loro esperienza. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Le parole del ministro della ricerca Giannini, della quale ci piacerebbe condividere fino in fondo l'ottimismo, almeno nel settore della ricerca, introducono questa puntata. Comunque la si veda, la Giannini indica la direzione verso cui muoversi, quella della circolazione dei talenti. Questo dopo aver annunciato che i fondi volti a favorire l'ingresso di giovani nella ricerca in Italia passeranno dagli attuali 320 milioni a 770 nel 2018. Oggi focus di questa trasmissione di Giovani Talenti sui nostri giovani ricercatori, in particolare gli economisti all'estero. Siete in tanti, lo sappiamo, e andremo a raccontarvi una branca della vostra professione poco conosciuta nella penisola. Oggi è anche l'ultimo sabato di novembre, tornano dunque le lettere che scrivete settimanalmente a Giovani Talenti. Quella odierna ve la segnaliamo per la sua straordinaria bellezza e profondità. È stata scritta dalla madre di una ragazza con la valigia pronta. Giovani talenti. La frase della settimana è copyright dello scrittore Roberto Saviano. Troppi talenti del nostro paese sono costretti a emigrare perché da noi non hanno possibilità di emergere. È qualcosa che mi procura rabbia e dispiacere. Il fatto è, ha aggiunto Saviano, che non si emigra soltanto negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Germania, Francia. Ormai ci sono giovani italiani che vanno anche a Tirana perché in Albania trovano condizioni migliori e più opportunità rispetto a quelle offerte dall'Italia. Ed è un discorso che riguarda soprattutto il sud, dal quale in tanti cercano di scappare. Oggi uno spunto di riflessione ce lo offrono i controesodati. Dopo il pasticcio dell'abolizione di fatto della legge 238/10, sostituita da una più burocratica norma 147/2015, i controesodati criticano adesso il potenziamento degli incentivi a chi rientra in Italia inserito dal governo nell'ultima manovra. Non tanto per la misura in sé, che giudicano anzi chiaramente molto positiva, ma per il fatto che, paradossalmente, chi lo scorso giugno aveva scelto di mantenere i benefici fiscali della vecchia legge controesodo, ora si ritrova parecchio svantaggiato e chiedono dunque di poter optare per il nuovo regime. Insomma, il classico pasticcio all'italiana, anche quando a guidarlo sono paradossalmente buone intenzioni. Torneremo nel prossimo futuro su questo tema. E poi c'è chi a tornare al momento non ci pensa. È difficile trovare questi posti di lavoro. Sì, ci sono piattaforme come LinkedIn che gli headhunters utilizzano per cercarci, però è anche difficile per noi trovare posti di lavoro perché troppo spesso in Italia si cerca lavoro attraverso famiglie, amici. Francesca Tamma, 26 anni, è un'economista comportamentale a lavoro in Svizzera. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio notiziario. Brexit in apertura. È stata manifestata da parte del ministro britannico per l'immigrazione Robert Goodwill una chiara volontà di collaborazione a prescindere dalla Brexit, così ha affermato a Radio 24 il sottosegretario all'interno Domenico Manzione. I cittadini italiani che vivono a Londra e nel Regno Unito non hanno nulla da temere in riferimento ai diritti che hanno maturato finora e alla possibilità di continuare a vivere qui, dice Manzione. Svolgere un'esperienza internazionale durante la scuola superiore consente agli studenti di acquisire non solo maggiori capacità linguistiche e scolastiche, ma anche di maturare una forte consapevolezza per il futuro. E quanto emerge da uno studio scuola.net su dati Alma Diploma, relativi a quasi 11.000 diplomati che vantano esperienze oltreconfine. Secondo lo studio, a fare questo tipo di esperienze sono soprattutto ragazze, in prevalenza verso paesi anglofoni. Hanno maturato un'ottima conoscenza delle lingue e, rispetto ai loro colleghi, attribuiscono maggiore importanza alla formazione. I diplomati che hanno svolto esperienze internazionali intendono poi proseguire gli studi con un percorso universitario. Problema meritocrazia. Se il 73% dei collaboratori delle aziende presenti nella classifica Best Workplaces Italia 2016 valuta la propria azienda come meritocratica, appare decisamente inferiore il dato relativo al campione di aziende pubbliche con una percezione del 19% e persino nelle aziende private, più in generale, dove la percentuale si ferma al 24%. I dati sono stati forniti nel corso del convegno Meritocrazia e Leadership. Inizia a farsi sentire il calo del numero dei NEET, i giovani inattivi, così listati in un dossier sui giovani. I NEET, viene evidenziato, sono passati da 2.287.000 del secondo trimestre 2015 a 2.035.000 nel secondo trimestre 2016, una riduzione significativa su base annua pari all'11%. I segnali di ripresa del mercato del lavoro in Italia si sono ulteriormente rafforzati durante il primo semestre di quest'anno. Secondo l'osservatorio InfoJobs, sul mercato del lavoro rispetto ai primi sei mesi 2015, le offerte di impiego totali sono cresciute del 13%. Tra i settori compie un vero e proprio balzo la consulenza manageriale, seguita da ICT e telecomunicazioni. Sono i giovani i più colpiti dai tagli in università. E quanto evidenzia la conferenza dei rettori, tra 2008 e 2015 il personale docente delle università è calato di 12.000 unità a causa delle restrizioni del turnover. I docenti di ruolo sotto i 40 anni sono diminuiti del 63%, meno 84% per gli ordinari, meno 71% per i ricercatori. E L'Oreal Italia lancia la 15ª edizione del premio L'Oreal Italia per le donne e la scienza. 6 da quest'anno le borse di studio assegnate. Scadenza per le candidature 19 gennaio. Info su loreal.it. Siglato un accordo di cooperazione tra Ca' Foscari e la Camera di Commercio e Industria giapponese in Italia, obiettivo l'incremento dei potenziali posti di lavoro e stage per studenti e alumni ca' foscarini presso aziende giapponesi in Italia o italiane che lavorano col Giappone. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta poco oltre il confine, rotta dunque verso la Svizzera, paese che ci riserva sempre qualche interessante sorpresa in tema di impiego. Nome: Francesca. Cognome: Anna. Età: 26. Città di origine: Milano. Studi: Economia. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2006 e poi 2008 definitivamente. Per andare dove? Prima in Canada e poi Regno Unito. Perché? Studi. Quale lavoro svolge attualmente? Economista comportamentale. Dove? A Zurigo. Tornerai? Spero. Non è stato un percorso standard, come non lo sono le carriere della maggior parte dei giovani sul mercato del lavoro, che non scelgono più di seguire un percorso prestabilito che li porta a diventare professionisti in un ambito ben definito. Così ti presentavi, Francesca, alcuni mesi fa a Giovani Talenti @radio24.it. All'estero ti chiedo: uscire da sentieri predefiniti e costruirsi una carriera su misura è possibile? E vedi l'Italia, al contrario, ancora troppo ingessata e bloccata su percorsi standard? Allora sì, penso che all'estero, non dappertutto, ci sia questa opportunità di uscire a sentieri predefiniti, soprattutto nei paesi anglosassoni, dove il sistema educativo universitario apre le porte a esperienze lavorative che altrimenti sarebbero sconosciute. In Italia non è ancora il caso, basta guardare i numeri delle start-up che ci sono magari in Italia e nel Regno Unito: in Italia 5.000, nel Regno Unito 500.000, e poi la combinazione del pagamento per questi posti di lavoro, che in Italia rimane ancora troppo bassa. Allora, adesso la tua storia, che potrebbe essere anche di grande ispirazione per giovani intraprendenti all'ascolto. La svolta, perché nella vita ce n'è sempre una, arriva al quarto anno di liceo che trascorri in Canada. In breve, che mondo scopri in Nord America? Un mondo internazionale, ero circondata da tante persone di diverse nazionalità e di equilibrio tra sport, famiglia, politica e cultura. Ispirata dai percorsi dei miei coetanei, che avevano deciso di intraprendere il proprio percorso universitario all'estero, ho iniziato a cercare dove avrei potuto iscrivermi all'università fuori dall'Italia. Perché hai scartato, ti chiedo, completamente l'ipotesi di studiare qui? In realtà non è che l'ho scartata, ho guardato quali erano i corsi disponibili, ma la varietà che era offerta non era tale, non era comparabile a quella che c'era all'estero. E infatti scegli Edimburgo. Perché Edimburgo? E soprattutto raccontaci quanto è favorevole la Scozia in termini di tasse universitarie anche per voi stranieri. Sì, allora il mercato del lavoro nel Regno Unito era più, si prospettava più brillante, quindi ho scelto il Regno Unito. La Scozia ha un provvedimento per gli studenti europei che prevede il pagamento delle tasse universitarie ancora oggi dopo la Brexit. Ecco, importante. In Scozia studi geografia, e allora il tuo giudizio innanzitutto a posteriori da 1 a 10 sulla qualità dell'insegnamento in Gran Bretagna, e ti chiedo anche se è vero che è molto più basato sulla pratica rispetto alla teoria. Sì, io non ho studiato nelle top università, ho studiato sia l'LSE e Edimburgo, che sono entrambe ottime, ma non Oxford e Cambridge, quindi non ho tutta la visione completa, però direi 8 su 10 e di sicuro è basato più sulla pratica che sulla teoria, perché tanti dei corsi hanno una parte pratiche durante l'estate, gli studenti vengono incoraggiati a fare delle esperienze appunto lavorative. E la cosa forse più interessante è data dalla possibilità di seguire moduli fuori curriculum. Anche qui questa scelta segna la svolta quando scegli economia. Che direzione prende in quel momento la tua carriera? Mi avvicino più alle materie più tecniche. Oggi è un mondo in cui i dati, l'analisi dei dati è molto importante. Quella è stata una scelta abbastanza illuminata che mi ha aiutato, e ho fatto poi la tesi con una professoressa di teoria dei giochi che mi ha portato più vicino alle scienze umanistiche, alla psicologia e all'economia. Apriamo ora anche una breve parentesi sulle esperienze di lavoro durante gli studi, le internship che viene incoraggiata a fare già in università, perché questo prevede il sistema britannico, ne svolge anche alcune all'estero, e ti chiedo, in questo il sistema educativo anglosassone è effettivamente vincente? Sì, io finivo l'università e avevo 4 mesi di vacanza rispetto ai miei colleghi all'università italiana che non li avevano, quindi durante questi 4 mesi avevo l'opportunità di fare molto più internship, esperienze lavorative, quindi andai in Vietnam, in Senegal, ma anche a Londra, Edimburgo stessa, a fare tra volontariato e lavori in cui si poteva declinare la laurea in economia. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Francesca Tamma, 26enne economista comportamentale di stanza in Svizzera. Francesca imbocca una professione semi sconosciuta in Italia e lo fa forte di una carriera assolutamente internazionale, che inizia con gli studi in Scozia prima di abbracciare Londra e la Svizzera. In mezzo, esperienza ad altissimo livello nonostante la giovane per l'Italia età. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. Queste esperienze ti aiutano a capire come a te interessi poi fare ricerca applicata in campo economico, e il tuo primo incarico è addirittura nel governo britannico. Come ci arrivi? Quale selezione passi da straniera, tra l'altro? Il Career Service, che si occupava di avvicinare gli studenti dell'università al mondo del lavoro, faceva grandi campagne per far conoscere le persone quali erano i lavori per loro compatibili. Questo è uno di quelli che era stato presentato, mi interessava, ho trovato tutte le applicazioni su internet, c'è stato un processo lungo ma molto trasparente, e come straniera io ero trattata come tutti gli altri, non avrei potuto accedere a lavori per l'FCO, cioè il Dipartimento degli Esteri. Riassumo brevemente, a Londra lavori un anno nel Dipartimento Energia e Cambiamento Climatico, lo fai all'interno di un programma dedicato ai talenti futuri dell'amministrazione pubblica, un tuo pari grado in Italia si sarebbe tenuto ben stretto quel posto, ma tu no, perché ti trovi alla fine in un ambiente lavorativo dinamico, che è quello britannico. Fai domanda per una borsa di studio, torni in università a fare cosa? Non era stata una scelta suicida, perché poi avrei potuto tornare al posto di lavoro se avessi voluto. Comunque andai a studiare economia perché appunto era un ambito in cui le persone erano incoraggiate a svilupparsi anche di più dal punto di vista accademico. Tra l'altro questo master lo fai alla London School of Economics, e il passo verso poi il lavoro successivo per la Behavioral Insight Team è breve. Con loro ti specializzi in economia comportamentale e resti 2 anni. Esperienza fantastica, ricordi? Eppure dopo un biennio decidi di lasciare. Domanda secca, paura della Brexit o ci sono stati anche altri motivi? La Brexit si sentiva, nel senso che negli ultimi tempi i nostri progetti erano stati messi in pausa finché il governo stava cercando di risolvere quelli che erano i grandi dubbi della Brexit. Comunque la mia scelta aveva anche dei motivi personali, ero stata a Londra ormai 4 anni e avevo voglia di cambiare per una città più a dimensione d'uomo. Così opti per fare domande di lavoro all'estero, approdo in Svizzera, dove per fare cosa? Approdo a Zurigo, in realtà era una delle tante scelte, ho cercato anche Amsterdam, in Italia non è che l'avevo esclusa, e cercando sempre lavori simili, quindi di economia comportamentale applicata, ricerca applicata al mondo del lavoro. La tua branca, l'economia comportamentale, è conosciuta qui in Italia? Sì, devo dire di sì, soprattutto nell'ambito accademico. Ci sono opportunità? Lavorative, poche. La nostra domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? Vedo un'opportunità di riportare in Italia a lavorare tutte queste persone che come me si sono formate all'estero, che potrebbero quindi importare l'innovazione all'estero attraverso un posto di lavoro. È difficile trovare questi posti di lavoro? Sì, ci sono piattaforme come LinkedIn che gli headhunters utilizzano per cercarci, però è anche difficile per noi trovare posti di lavoro, perché troppo spesso in Italia si cerca lavoro attraverso famiglie e amici. Quindi più apertura, più trasparenza sulle offerte di lavoro e magari anche delle quote per permettere a alle persone che hanno studiato all'estero di entrare. Ci raggiunge ora in linea il professor Riccardo Viale, professore ordinario di metodologia delle scienze sociali presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università di Milano Bicocca. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Inizio subito con una domanda molto diretta. Francesca, secondo lei avrebbe potuto fare in tutta sincerità un percorso simile se fosse partita dall'Italia? Assolutamente no, perché prima di tutto in Italia non abbiamo il Behavior Insight Team di Londra, anche se da anni insistiamo perché ciò venga creato, e poi dopo non esistono istituzioni finanziarie così, diciamo, aperte e innovative come quelle che ha trovato a Zurigo e trovava in Gran Bretagna. Nelle riflessioni che lei ci ha inviato a giovanitalenti@radio24.it scrive giudizi molto netti sulla condizione della ricerca in Italia. Lei scrive: situazione ottocentesca di avversione alla ricerca interdisciplinare di confine. È così anche per l'economia comportamentale? È così per tutto. La tendenza monodisciplinare è una tendenza diffusa a livello internazionale, ma da noi è ancora più accentuata proprio per la struttura dei concorsi accademici legata ai raggruppamenti accademici. E in più non esiste, come invece in Germania, dove l'università non è nemmeno un granché, però in Germania abbiamo il Max Planck Institute, la ricerca di base, il Fraunhofer per la ricerca applicata, che permettono questa capacità di interazione interdisciplinare. Soprattutto emerge dalle sue riflessioni una sostanziale ignoranza e avversione al nuovo da parte della nostra Accademia, apparentemente arroccata su posizioni molto conservatrici. Le chiedo in modo molto diretto: di chi è la colpa? Chi è questa classe dirigente che non fa sostanzialmente progredire il Paese? L'Accademia è lo specchio del Paese, è lo specchio del nostro immobilismo. Noi facciamo cambiamenti, ma cambiamo di 100 metri gli altri paesi di un chilometro. Se guardiamo quello che è stato fatto nella città, sono state fatte alcune riforme, tipo ad esempio l'inserimento e introduzione della valutazione con l'AMBUR, però è stato fatto con strutture faraginose che usano modelli bibliometrici di valutazione discutibili e che incidono poco sul fondo di finanziamento ordinario dell'università, quindi non c'è il giusto incentivo per l'università per veramente darsi da fare e essere competitive. Poi dopo si parlava di attrarre i giovani. Si parla in maniera retorica sempre di attrarre i giovani e cosa si introducono? Dei piccoli incentivi di carattere economico-fiscale che assolutamente non attraggono i giovani brillanti. I giovani brillanti vogliono venire qui a fare ricerca in piena autonomia, avere carta bianca, avere risorse umane tipo PhD student a disposizione, risorse tecnologiche e finanziarie. Insomma, ciò che non avviene mai. Non si accontentano dei 100 metri, ma vogliono il chilometro di progresso. Vogliono quello che hanno all'estero, che hanno in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, ma che qui invece è impossibile ancora vedere. Le faccio un'ultima domanda molto semplice, molto rapida. Un giovane, lei cosa consiglierebbe in tutta onestà? Seguire l'esempio di Francesca e andarsene oppure restare? In questo momento per un giovane è molto difficile rimanere in questo paese, quindi il consiglio è di andarsene, anche perché in questo paese invece di avere un cambiamento di clima verso chi è capace, verso chi è esperto, verso chi è bravo, c'è una tendenza completamente opposta, c'è quello che io chiamo la meritocrazia degli underdog, il populismo dell'ignoranza, cioè chi è esperto, chi è preparato in questo paese, in questo momento sembra che sia l'ultimo posto della graduatoria di quelli che devono essere presi in considerazione. Questo è drammatico. Io ringrazio il professor Riccardo Viale, grazie anche per i consigli, e domanda diritto a Francesca Tamma: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Oggi è veramente facile fare l'espatrio ed è anche probabile che ci siano tanti amici che già abitano nelle città in cui le persone potrebbero andare. Poi a tornare indietro si fa sempre in tempo e qualsiasi esperienza, anche negativa, arricchisce. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: una capo del Dipartimento Legale alla European Aviation Safety Agency di Colonia in Germania, scadenza per i CV dopodomani, info su easa.europa.eu/recruitment. Una funzionario per l'organizzazione di eventi per Elixir a Inkston nei pressi di Cambridge, Gran Bretagna, scadenza per i CV 30 novembre, info su elixir-europa.org. E infine un professore in fisica sperimentale all'Università di Aarhus in Danimarca, scadenza per CV 15 febbraio, info su au.dk. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Oggi vi proponiamo, come ogni ultimo sabato del mese, una delle tante lettere che scrivete settimanalmente a giovanitalenti@radio24.it. Ci ha molto colpito perché è quella di una madre che vede la propria figlia pronta a lasciare questo paese dopo i numerosi sacrifici fatti per formarla. Troppo ridotte e persino ridicole le opportunità per la giovane qui. Voi continuate a mandarci le vostre missive e le vostre riflessioni. Ora la lettera di Rita. Sono la mamma di quella che io ritengo non una studentessa modello, ma una ragazza creativa, curiosa, determinata, volitiva, impegnata, che sa guardare oltre i comuni orizzonti. Questa e di più è mia figlia, che ho allevato da sola con grande amore. Ai test per la frequenza al primo anno di giurisprudenza si è piazzata 57esima. Nel corso dei 5 anni ha appreso 5 lingue straniere. Laureatasi nel 2014, nel 2015 ha preso il master alla COI, a Roma, in istituzioni e politiche del diritto spaziale. A settembre 2015, per conto dell'ESA, in seguito alla partecipazione ad un bando di concorso, è andata in Francia per una full immersion sul diritto spaziale. Nel 2016 uno stage nel settore aerospaziale, in un settore che niente aveva a che vedere con il titolo di laurea, ma nel quale mia figlia, 26enne, ha dato con grande successo il meglio di sé. Il suo capo avrebbe voluto trattenerla per lo stage di altri 6 mesi, stavolta pagati, sia pure miseramente. Ha inviato la domanda con il preventivo, ma bisogna vedere se ci sono i fondi. Intanto, come da prassi, ha inviato il suo super dignitoso curriculum in varie aziende, ma siamo in Italia, ovviamente. Sa cosa credo? Che l'Italia non meriti certi ragazzi, ragazzi eccellenti che hanno voglia di mettere in gioco le loro intelligenze. Sa, mia figlia, anche se laureata in giurisprudenza, non ha temuto i numeri, anzi, è proprio la sua bella intelligenza e il suo impegno che le hanno permesso di creare un database. Non è per tessere le lodi della mia ragazza che le ho raccontato questo, perché lei è molto di più e come lei ci sono tanti ragazzi che vorrebbero lavorare e lavorare in Italia. Fin da quando era piccola le avevo preventivato tutto ciò e la invitavo un domani ad andare via da qui con serenità. Ora che il momento sta per arrivare, poiché le ho suggerito che qualora non dovesse trovare nulla qui deve andarsene all'estero, sinceramente mi si stringe il cuore e so che anche lei in realtà, forse perché ci sono io, lo farebbe a malincuore. Del resto, cosa troverebbe qui? Forse degli stage dove ti spremono come un limone per poi mandarti a quel paese, posti che non si confanno agli elevati titoli posseduti, posti mal pagati perché in alto ci mettono i loro figli e parenti, amici e raccomandati. Noi genitori amiamo i nostri figli più della nostra vita e all'estero vorremmo che ci andassero per diporto o solo in caso di necessità, dati i tempi che corrono. Un motivo per restare o tornare. Gli sgravi per assunzioni al sud avranno una dote da 530 milioni che sarà gestita dall'INPS, lo prevede l'atto ministeriale messo a punto dal Dicastero del Lavoro. Lo sgravio pieno, fino a 8.060 euro, vale per le imprese meridionali che nel 2017 assumeranno giovani fino a 24 anni o persone con almeno 25 anni disoccupate da almeno 6 mesi. Sarà incentivata anche la trasformazione da tempo determinato a stabile, l'assunzione part-time o l'apprendistato. E per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Giovani Talenti Radio 24 o nella pagina Giovani Talenti. Siamo presenti anche su LinkedIn col gruppo La Fuga dei Talenti e potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Siamo allo spazio Internettivo, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda come abbiamo fatto anche oggi. Aspettiamo dunque le vostre domande, idee, proposte, riflessioni e anche le vostre denunce. Per mettervi in contatto con noi è davvero semplice, basta scriverci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, candidatevi giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.